Capitolo 66. Lydgate aveva certamente un buon motivo per riflettere di quanta utilità gli fosse la professione per contrastare le sue preoccupazioni personali. Non aveva più una sufficiente quantità di energia da dedicare alla ricerca e all'indagine speculativa, ma al capezzale dei pazienti, l'appello diretto ed esterno al suo discernimento e alla sua solidarietà gli instillavano quell'impulso supplementare necessario per distoglierlo da se stesso. Non si trattava semplicemente di quella benefica disciplina della routine che consente a persone stupide di vivere rispettabilmente e a uomini infelici di vivere tranquilli. Era un perpetuo richiamo all'applicazione fresca e viva del pensiero e alla considerazione del bisogno e della tribolazione altrui. Molti di noi, passando in rassegna la propria vita, direbbero che l'uomo più gentile che abbiano mai conosciuto è stato un medico, o forse quel dottore il cui tatto sensibile, guidato da una capacità di percezione profondamente competente, si era affacciato nel momento del bisogno con una carità più sublime di quella di chi opera miracoli. Un po' di quella compassione doppiamente benedetta accompagnava sempre Lydgate nel suo lavoro all'ospedale o nelle case dei pazienti, contribuendo meglio di qualsiasi sostanza oppiacea a tranquillizzarlo e a sostenerlo nelle preoccupazioni e nel suo senso di degenerazione mentale. Il sospetto di Mr. Fairbrother che ricorresse a sostanze oppiacee era comunque fondato. Al primo irritante assillo di difficoltà previste e alla prima sensazione che il suo matrimonio, se non voleva essere una solitudine vincolata, doveva essere uno sforzo continuo ad amare senza curarsi molto di essere amato, aveva assaggiato una dose di oppio un paio di volte. Ma egli non aveva alcun desiderio ereditario e connaturato per simili transitorie fughe dalle ossessioni della tristezza. Era forte, poteva bere una gran quantità di vino, ma non gli piaceva farlo, e quando coloro che lo attorniavano bevevano alcolici, egli prendeva acqua zuccherata, nutrendo una sprezzante compassione anche per i primi stadi dell'euforia data dal bere. Lo stesso per il gioco d'azzardo. Era stato a sé spesso spettatore di giochi d'azzardo a Parigi, osservandoli come se fossero stati una malattia. Non era tentato da tali vincite più di quanto non lo fosse dagli alcolici. Si era detto che le uniche vincite che gli premevano dovevano essere raggiunte con un processo consapevole di combinazioni elevate e difficili, tendenti ad un risultato benefico. Il potere che bramava non poteva essere rappresentato da dita agitate che stringevano un mucchio di monete o dalla luce semibarbara o semidemente di trionfo che brilla negli occhi di uno che fa piazza pulita delle puntate di 20 compagni scoraggiati. Ma proprio come aveva provato l'oppio, così ora cominciò a rivolgere il pensiero al gioco d'azzardo, non per il desiderio dell'eccitazione da esso provocata, ma per una specie di ansiosa mira interiore a quel modo facile di procurarsi denaro, che non comportava alcuna richiesta e non arrecava alcuna responsabilità. Se fosse stato a Londra o a Parigi a quel tempo, è probabile che simili pensieri, assecondati dall'occasione favorevole, lo avrebbero portato in una casa da gioco, non più per osservare i giocatori, ma per tenerli d'occhio con brama fine. La ripugnanza sarebbe stata soffocata dall'immenso bisogno di vincere, se il caso fosse stato così gentile da permetterglielo. Un incidente che accadde non molto tempo dopo che era andata in fumo quella fantasiosa idea di ottenere aiuto dallo zio. Fu un segno notevole dell'effetto che sarebbe potuto seguire a qualsiasi occasione ancora esistente di giocare d'azzardo. La sala da biliardo del Green Dragon era il costante luogo d'incontro di una certa cricca di persone, per la maggior parte, come la nostra conoscenza, Mr. Bembridge, considerate dedite al piacere. Era stato qui che il povero Fred Vincey aveva contratto parte del suo debito famoso, avendo perduto del denaro in scommesse, ed era stato costretto a chiederne in prestito a quel gaio compagno. In generale a Middlemarch si sapeva che in questo modo si vinceva e si perdeva una gran quantità di denaro, e la conseguente fama di luogo di perdizione del Green Dragon naturalmente rafforzava in alcuni ambienti la tentazione di andarci. Probabilmente i suoi frequentatori abituali, come gli iniziati della massoneria, avrebbero desiderato che quel luogo serbasse qualcosa di più tremendo di cui conservare il segreto. Ma non era una comunità chiusa e molti anziani, oltre che giovani per bene, di quando in quando mettevano piede nella sala da biliardo per vedere cosa stava succedendo. Lydgate, che aveva i muscoli adatti per il biliardo, e a cui il gioco era simpatico, nei primi tempi dopo il suo arrivo a Middlemarch aveva preso in mano la stecca per un paio di volte, quando era stato il suo turno al Green Dragon. Ma in seguito non aveva avuto tempo libero per il gioco, né era stato propenso a entrare a far parte della vita sociale di quell'ambiente. Una sera, tuttavia, ebbe occasione di cercare Mr. Bembridge in quel ritrovo. Il cavallaio si era impegnato a trovargli un acquirente per il cavallo buono che gli era restato, che Lydgate era deciso a sostituire con una rozza da basso prezzo, nella speranza di risparmiare 20 sterline con questa riduzione del proprio tenore di vita. E ora stava attento a ogni somma modesta, in quanto contribuiva a far pazientare i suoi fornitori. Fare una corsa di sopra nella sala da biliardo mentre stava passando gli avrebbe risparmiato tempo. Mr. Bembridge non era ancora giunto, ma sarebbe certo arrivato da un momento all'altro, disse il suo amico Mr. Horrock, e Lydgate rimase facendo una partita per passare il tempo. Quella sera aveva quella particolare luce negli occhi e quell'inconsueta vivacità un tempo notate in lui da Mr. Fairbrother. Il fatto eccezionale della sua presenza fu assai notato nella sala, dove si trovava una numerosa brigata di gente di Middlemarch, e diversi osservatori, oltre ad essere dei giocatori, stavano scommettendo con animazione. Lydgate giocava bene e si sentiva fiducioso. Le scommesse fioccavano attorno a lui e con un rapido e spontaneo pensiero del probabile guadagno che avrebbe potuto raddoppiare la somma che stava risparmiando sul cavallo, cominciò a scommettere su se stesso e vinse più e più volte. Mr. Bembridge era arrivato, ma Lydgate non lo notò. Non solo era eccitato dal proprio gioco, ma gli balenava il progetto di recarsi il giorno successivo a Bressing, dove si poteva trovare da giocare d'azzardo su scala più vasta e dove con un poderoso morso all'esca del diavolo egli avrebbe potuto portarsela via senza l'amo e trovare il denaro per liberarsi dai solleciti quotidiani. Stava ancora vincendo quando entrarono due nuovi visitatori. Uno di questi era un giovane Hawley, appena arrivato dai suoi studi in legge a Londra, e l'altro era Fred Vincey, che negli ultimi tempi aveva trascorso diverse serate in questo luogo, da lui un tempo frequentato assiduamente. Il giovane Hawley, un giocatore di biliardo esperto, portò una mano nuova e calma al gioco. Ma Mr. Fred Vincey, sorpreso nello scorgere Lydgate e sbalordito nel vederlo scommettere con aria eccitata, si tenne in disparte e lontano da coloro che circondavano il tavolo. Negli ultimi tempi Fred aveva premiato la risolutezza con un po' di rilassatezza. Per 6 mesi si era dedicato con entusiasmo a ogni occupazione all'aperto sotto Mr. Garth e a forza di un severo esercizio aveva quasi vinto i difetti della sua calligrafia. Ma questo esercizio era forse un po' meno severo perché veniva svolto spesso di sera a casa di Mr. Garth sotto gli occhi di Mary. Ma da 2 settimane Mary si trovava nella casa del pastore di Lowick assieme alle donne di casa, mentre Mr. Fairbrother era a Middlemarch dove stava realizzando alcuni progetti parrocchiali. E Fred, non vedendo nulla di più gradevole da fare, era entrato al Green Dragon, in parte per giocare a biliardo, in parte per gustare l'antico sapore dei discorsi sui cavalli, lo sport e le cose in generale, considerate da un punto di vista che non era rigorosamente corretto. Non era riuscito a cacciare una sola volta quella stagione, non aveva un cavallo suo da cavalcare e si era recato da un luogo all'altro assieme a Mr. Garth nel suo calese o sul calmo cavallino che Mr. Garth poteva prestargli. Era un po' troppo. Fred cominciò a pensare a essere tenuto a freno con maggiore severità che se fosse stato un prete. Sai cosa ti dico, signora Mary? Sarà un lavoro un po' più duro imparare a fare perizie e disegnare progetti di quanto non lo sarebbe stato scrivere sermoni, aveva detto, col desiderio che lei apprezzasse ciò a cui si sottoponeva per amore di lei. E quanto a Ercole e a Teseo, in confronto a me non erano niente. Loro si sono divertiti e non hanno imparato a scrivere con la calligrafia di un contabile. E adesso, siccome Mary era via per un po' di tempo, Fred, a somiglianza di qualsiasi altro cane vigoroso che non può sgusciare fuori dal collare, aveva spezzato l'anello della catena e si era dato a una piccola fuga, naturalmente senza l'intenzione di andare veloce o lontano. Non ci poteva essere alcun motivo perché non potesse giocare a biliardo, ma era deciso a non scommettere. Quanto a soldi, proprio allora Fred aveva in mente l'eroico progetto di risparmiare quasi tutte le 80 sterline che Mr. Garth gli offriva e di ridargliele, cosa che poteva fare facilmente rinunciando a ogni spesa frivola, dato che aveva una riserva di vestiti sufficiente d'avanzo e nessuna spesa per il vitto. In tal modo avrebbe potuto in un solo anno ripagare una buona parte delle 90 sterline di cui aveva privato Mrs. Gare, disgraziatamente, in un momento in cui quella somma le era più necessaria di ora. Comunque, bisogna riconoscere che quella sera, che era la quinta delle sue visite recenti alla sala da biliardo, Fred non aveva in tasca, ma in testa, le 10 sterline che intendeva trattenersi sullo stipendio semestrale, pregustando il piacere di portarne 30 a Mrs. Gert quando Mary probabilmente sarebbe stata di nuovo a casa. Aveva quelle 10 sterline in mente come fondo da cui avrebbe potuto rischiare qualcosa se si offriva la possibilità di una buona scommessa. Perché? Beh, quando c'era un gran svolazzare di sterline, perché non avrebbe dovuto afferrarne qualcuna? Non si sarebbe spinto di nuovo molto in là per quella strada, ma a un uomo, in generale a coloro che sono dediti al piacere, piace assicurarsi di quello che potrebbero fare in tema di pazzie se volessero, e che se si astengono dal danneggiarsi o dal ridursi in miseria o dal parlare con la massima libertà consentita dagli stretti confini delle capacità umane, non è perché siano degli stupidi. Fred non si spiegò le ragioni formali, che sono un modo assai artificioso e inesatto di rappresentare i frementi ritorni di antiche abitudini e i capricci del sangue giovane, ma in lui si annidava la sensazione profetica che quella sera, quando avesse cominciato a giocare, avrebbe anche cominciato a scommettere, che avrebbe gradito bere un po' di punch e in generale si sarebbe preparato a sentirsi piuttosto giù di corda al mattino. È con simili indefinibili moti che l'azione spesso inizia. Ma l'ultima cosa che Fred si sarebbe aspettato era di vedere il cognato Lydgate, a proposito del quale non aveva mai rinunciato all'idea che fosse un sacerdote terribilmente consapevole della propria superiorità, con un aspetto eccitato e intento a scommettere, proprio come avrebbe potuto fare lui stesso. Fred provò una scossa maggiore di quanto avrebbe potuto spiegare la sua vaga conoscenza che Lydgate aveva dei debiti e che suo padre si era rifiutato di aiutarlo, e quell'inclinazione ad entrare nel gioco fu improvvisamente frenata. Era uno strano rovesciamento di atteggiamenti. Il viso biondo e gli occhi azzurri di Fred, di solito luminosi e incuranti, pronti a prestare attenzione a tutto ciò che gli si presentava una scommessa di divertimento, avevano un aspetto involontariamente grave, quasi imbarazzato, come alla vista di qualcosa di sconveniente. Mentre Lydgate, che abitualmente sembrava molto padrone di sé e aveva un certo atteggiamento meditativo che sembrava star dietro alla sua attenzione più viva, agiva, guardava e parlava con quella coscienza ottusa ed eccitata che ci ricorda un animale dagli occhi furiosi e dagli artigli retrattili. Lydgate, scommettendo su di sé, aveva vinto 16 sterline, ma l'arrivo del giovane Holly aveva mutato l'equilibrio delle cose. Questi imbroccò dei colpi magistrali e cominciò a scommettere contro i colpi di Lydgate, la cui tensione in tal modo passò dalla semplice fiducia nelle proprie mosse al desiderio di sfidare il dubbio sollevato su di esse da un'altra persona. Il senso di sfida era più eccitante di quello di fiducia, ma era meno sicuro. Continuò a scommettere sul proprio gioco, ma cominciò a fare fiasco spesso. Tuttavia proseguì perché la sua mente si era puntata così completamente su quel ripido precipizio del gioco, come se fosse stato il più ozioso fannullone del luogo. Fred osservò che Lydgate stava perdendo rapidamente e si trovò nella nuova situazione di scervellarsi per ideare qualche stratagemma grazie al quale, senza portare offesa, potesse distrarre l'attenzione di Lydgate e magari suggerirgli una buona ragione per lasciare la stanza. Notò che gli altri stavano osservando lo strano comportamento di Lydgate, così diverso dal solito, e gli passò per il capo che semplicemente toccandogli il gomito e chiamandolo in disparte per un momento l'avrebbe potuto destare dalla foga. Non gli riuscì di almanaccare nulla di più intelligente dell'audace assurdità di dire che voleva vedere Rosie e desiderava sapere se quella sera si trovava a casa. Ed era sul punto di mettere disperatamente in atto questo debole stratagemma quando venne da lui un cameriere con un messaggio, dicendogli che Mr. Fairbrother era da basso e chiedeva di parlargli. Fred rimase stupito e si sentì non proprio del tutto tranquillo, ma mandò a dire che sarebbe stato da basso immediatamente e, spinto da un nuovo impulso, si fece avanti verso Lydgate e disse: «Posso parlarvi un momento?» e lo trasse da parte. Fairbrother ha appena mandato su un messaggio per dire che vuole parlarmi. È di sotto. Pensavo che vi facesse piacere sapere che era qui, nel caso aveste qualcosa da dirgli. Fred si era semplicemente attaccato a questo pretesto per parlare, perché non gli riuscì di dire: state perdendo a più non posso e vi fate osservare da tutti, fareste meglio a venire via. Ma l'ispirazione ben difficilmente gli avrebbe potuto fare un miglior servigio. Lydgate non si era accorto prima che Fred era presente e la sua improvvisa comparsa, quell'annuncio che c'era Mr. Fairbrother, ebbe l'effetto di una brusca scossa. No, no, disse Lydgate, non ho nulla di particolare da dirgli, ma il gioco è finito, devo andare. Sono entrato solo per vedere Bembridge. Bembridge è laggiù, ma sta facendo baruffa. Non penso che sia pronta a badare agli affari. Scendete con me da Fairbrother, mi aspetto che abbia intenzione di farmi una ramanzina e voi mi farete da scudo, disse Fred con una certa abilità. Lydgate provò vergogna, ma non voleva mostrarlo rifiutandosi di vedere Mr. Fairbrother. Così scese. Si limitarono tuttavia a darsi la mano e a parlare del gelo. E quando tutti e tre furono usciti in strada, il parroco parve assai desideroso di accomiatarsi da Lydgate. Il suo scopo attuale era chiaramente di parlare da solo con Fred e disse in tono mite: Giovanotto, ti ho disturbato perché ho una cosa pressante da sbrigare con te. Cammina con me fino a Semboto. Vuoi? Era una bella serata. Il cielo era punteggiato di stelle e Mr. Fairbrother propose di prendere la London Road più lunga per arrivare alla vecchia chiesa. La cosa che disse subito dopo fu: pensavo che Lydgate non andasse mai al Green Dragon. Anch'io, disse Fred, ma lui ha detto che ci è andato per incontrare Bembridge. Allora non stava giocando. Non era stata intenzione di Fred dire questo, ma ora ci fu obbligato. Sì che stava giocando, ma penso che fosse una cosa casuale, non l'ho mai visto là in precedenza. Allora tu ci sei andato spesso negli ultimi tempi. Circa 5 o 6 volte. Penso che avessi una qualche buona ragione per rinunciare all'abitudine di andarci. Sì, sapete tutta la storia, disse Fred, non amando essere interrogato in questo modo. Vi ho confessato tutto. Suppongo che quest'ora mi autorizzi a parlarti della faccenda. Fra di noi è sottinteso, non è vero? Che ci sia un rapporto di amicizia sincera. Io ho ascoltato te e tu sarai disposto ad ascoltare me. Posso a mia volta parlarti un po' di me? Mi sono obbligato nel modo più completo, Mr. Fairbrother, disse Fred, aspettandosi qualcosa di sgradevole. Non negherò che hai qualche obbligo verso di me, ma voglio confessarti, Fred, che sono stato tentato di tenere tutto questo per me, non parlandoti proprio ora. Quando qualcuno mi ha detto il giovane Vincy si è rimesso attorno al tavolo da biliardo ogni sera, non terrà a lungo il freno. Sono stato tentato di fare il contrario di ciò che sto facendo, di tenere la bocca chiusa e aspettare che scivolassi giù per la china di nuovo, prima scommettendo e poi. Non ho fatto alcuna scommessa, si affrettò a dire Fred. Lieto di saperlo. Ma io dico, la mia tentazione è stata di stare a guardare e vederti prendere la strada sbagliata, far spazientire per bene Garth e perdere la migliore occasione della tua vita, l'occasione che hai fatto qualche arduo sforzo per assicurarti. Puoi immaginare quale sia stato il sentimento che ha suscitato quella tentazione in me. Sono certo che lo sai, sono certo che sai che l'appagamento dei tuoi affetti ostacola quello dei miei. Ci fu un momento di silenzio. Mr. Fairbrother sembrava attendere un riconoscimento del fatto, l'emozione che si percepiva nei toni della sua voce gentile conferiva solennità alle sue parole. Ma nessun sentimento poteva spegnere le allarmi di Fred. Non ci si poteva aspettare da me che rinunciassi a lei, disse dopo un momento di esitazione. Non era il caso di fingere di essere generosi. Chiaramente no. Quando l'affetto di lei corrispondeva al tuo, ma i rapporti di questo genere, anche quando risalgono a vecchia data, sono sempre passibili di mutamento. Posso capire facilmente che tu possa comportarti in un modo da far rallentare il legame che lei prova per te. Bisogna ricordare che è vincolata a te solo in maniera condizionale e che in questo caso un altro uomo, che può lusingarsi di avere un peso nella sua considerazione, potrebbe riuscire a conquistare quel posto fermo nell'amore, oltre che nel rispetto, che tu ti fossi lasciato fuggire. Posso facilmente vedere un simile esito, ripeté Mr. Fairbrother con enfasi. C'è un rapporto di pronta simpatia che potrebbe avere la meglio anche sui rapporti più consolidati. A Fred parve che se Mr. Fairbrother avesse avuto un becco e degli artigli invece della sua lingua assai abile, il suo modo di attaccarlo non avrebbe potuto essere più crudele. Aveva la terribile convinzione che dietro tutto questo discorso ipotetico ci fosse la consapevolezza di un qualche effettivo cambiamento nell'affetto di Mary. Naturalmente so che tutto potrebbe facilmente andarmi all'aria, disse con aria preoccupata. Se sta cominciando a paragonare, si interruppe. Perché non gli andava di rivelare tutto ciò che provava e poi disse, aiutato da un po' di acredine, ma io pensavo che voi mi foste amico. E lo sono. Ecco perché siamo qui. Ma sono stato fortemente tentato di non esserlo, mi sono detto. Se c'è la possibilità che quel giovanotto si faccia del male da solo, perché dovresti metterti in mezzo? Tu non vali quanto lui e i tuoi 16 anni in più di lui, in cui sei stato piuttosto a digiuno, non ti hanno più dato diritto alla soddisfazione di quanto ne abbia data lui. Se c'è la possibilità che tu vada in malora, che ci vada, forse tu non potresti impedirlo comunque, e tu approfitta per trarne vantaggio. Ci fu un momento di pausa, in cui Fred fu colto da un senso estremamente sgradevole di gelo. Cosa sarebbe venuto dopo? Temeva di sentir dire che a Mary era stato detto qualcosa, provava la sensazione di ascoltare una minaccia invece di un avvertimento. Quando il parroco riprese a parlare, il suo tono era cambiato, come se fosse passato agli accenti incoraggianti di una chiave maggiore. Ma una volta avevo avuto intenzioni più lodevoli e sono tornato ad esse. Ho pensato che non avrei potuto confermarmi in esse in modo migliore. Fred, dicendoti proprio quello che era passato per il mio cuore. E ora mi capisci? Io voglio che tu faccia la sua felicità e la tua. E se c'è qualche possibilità che una parola di avvertimento da parte mia possa evitare qualsiasi rischio che accada il contrario, beh, io l'ho detta. Nel pronunciare le ultime parole, la voce del parroco si abbassò. Tacque. Si trovarono in uno spiazzo d'erba dove la strada faceva un diversivo verso San Boto. Ed egli tese la mano, come a sottintendere che la conversazione era terminata. Fred si sentì commosso in un modo nuovo. Qualcuno, assai sensibile alla contemplazione di un bel gesto, ha affermato che questo produce una sorta di brivido rigeneratore in tutto il corpo e fa sentire pronti a cominciare una nuova vita. Quell'effetto in buona misura era proprio allora presente in Fred Vincy. Cercherò di essere degno, disse, interrompendosi prima di poter aggiungere di voi oltre che di lei. E frattanto Mr. Fairbrother fu spinto a dire qualcos'altro. Non devi immaginare che io creda che al momento la sua preferenza per te sia diminuita, Fred. Mettiti il cuore in pace, che se tu fili dritto, altre cose fileranno dritto. Non scorderò mai quello che avete fatto, rispose Fred. Non sono in grado di dire nulla che sembri degno di essere pronunciato, solo farò in modo che la vostra bontà non sia andata sprecata. È sufficiente. Arrivederci e Dio ti benedica. In questo modo si separarono, ma entrambi gironzolarono a lungo prima di lasciare la notte stellata. Gran parte delle elucubrazioni di Fred si potrebbero riassumere nelle parole: sarebbe certo stata una bella cosa se avesse sposato Fairbrother, ma se ama di più me e io sono un buon marito? Forse quelle di Mr. Fairbrother si potrebbero concentrare in un'unica scrollata di spalle e in un piccolo discorso. Pensare alla parte che una piccola donna può avere nella vita di un uomo, così che rinunciare a lei può essere un'ottima imitazione dell'eroismo e conquistarla può essere una sorta di disciplina.